1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui allora alle 7 e 16 minuti, pronti a leggere i giornali con voi, cari ascoltatori. Vi ricordo il tema che approfondiremo poi alle 8:15. Vogliamo parlare in una puntata che abbiamo, in un approfondimento che abbiamo intitolato Causa che pende, causa che rende. È uno dei detti più famosi per far capire che ci sono degli avvocati che tirano un po' per le lunghe. Beh, insomma, parliamo dopo la disfida anche dialettica che c'è stata dal ministro Cancellieri e i rappresentanti degli avvocati in Italia di quello che è successo la scorsa settimana. Davvero pensate che gli avvocati siano una delle caste italiane che frenano questo paese irriformabile? Ne parliamo, gli avvocati si sono molto arrabbiati, c'è stato anche quel fuori onda in cui la Cancellieri ha detto incontro alcuni di questi avvocati così ci li togliamo dai piedi, l'associazione, l'ordine, gli avvocati si sono arrabbiati, hanno comprato pagine di pubblicità a dire non siamo così, non siamo stati interpellati, non siamo una casta. Ne parleremo alle 8:15, insomma, causa che pende, causa che rende. Intanto andiamo a leggere i giornali in edicola. È lunedì 8 luglio, i titoli, il Sole 24 Ore apre sui 10 dossier sul tavolo del governo, i più chiacchierati sono certamente l'IVA, l'IMU, ma anche il lavoro, la riforma fiscale, la spending review e altri che sono tutti elencati, tra poco li vedremo. Per il Corriere della Sera l'apertura sono le parole di Napolitano, ieri ritroviamo la fiducia in noi stessi, il Quirinale spinge l'Expo di Milano, Letta dice basta autolesionismo. Ma la questione IMU, detta ancora legge, può sembrare incredibile, ormai è da mesi che è così, ma ancora sulle aperture dei giornali e soprattutto gli attacchi del PDL al ministro dell'economia Saccomanni. Per Repubblica, IMU, il PDL attacca Saccomanni, questo è il titolo di apertura. Il giornale, sinistra tutta tasse, la trappola IMU. Il Messaggero, IMU, il PDL contro Saccomanni. Il Secolo XIX è ancora più duro, IMU, il PDL spara sul ministro. Mentre Expo, occasione per l'Italia, questa è l'apertura dell'Unità. Il titolo della Stampa invece è un titolo che è una ricerca di Unioncamere anticipata dalla Stampa, è una fotografia impietosa della crisi italiana, fallimenti, l'anno dei record, 3 aziende chiuse ogni 2 ore, non per i debiti ma per i mancati incassi. Il Fatto Quotidiano del lunedì invece mette questo titolo, non ci resta che piovere. Ed è un titolo relativo al fatto che la denuncia del Fatto Quotidiano, il governo ha dimezzato la flotta antincendi per colpa della crisi e quindi se mai arrivasse l'emergenza incendi, come dire, non resta che sperare che piova. Questo è il titolo, il senso del titolo in prima pagina del Fatto Quotidiano. Voglio partire da un articolo di Gian Antonio Stella che ogni tanto racconta delle storie che sono degli spaccati d'Italia, piccoli grandi spaccati d'Italia attraverso i quali si può capire anche come va questo paese. Allora, Gian Antonio Stella, pagina 19 del Corriere della Sera. Il prof con il curriculum taroccato che giudica gli aspiranti colleghi. È la storia di Angelo Sindoni, professore a Messina, che dovrà selezionare i docenti di storia moderna. Solo che, scrive Gian Antonio Stella, la denuncia di alcuni è lui stesso ha taroccato il curriculum per essere lì. E allora, accettereste di essere giudicati da un professore che per entrare in commissione e giudicare voi ha presentato un curriculum taroccato? Mai, direte. Eppure quello che sta accadendo agli aspiranti docenti universitari ordinari associati di storia moderna. Sullo scandalo è stata messa una pezza ancora più strabiliante, il permesso al taroccatore, udite udite, di aggiustare quel curriculum retroattivamente. Teatro della storia è Messina, dove l'Ateneo, già al centro di mille polemiche, scosso ieri dagli arresti per gli esami facili, le rivelazioni su interferenze di 'Ndrangheta, era stato sconvolto anni fa perfino da un delitto, l'uccisione a colpi di lupara di un professore, Matteo Bottari. Tutto comincia quando, nel tentativo di lasciarsi alle spalle le sconcezze di certi concorsi del passato, quando i baroni più spregiudicati potevano mettere in cattedra figli, mogli, cognati, famigli, somari, viene tentata la strada di commissioni nazionali delegate, non ad assegnare le cattedre, ma a valutare gli aspiranti professori. Bene, tra i 54 aspiranti membri della Commissione per l'abilitazione in storia moderna c'è anche Angelo Sindoni, ordinario di storia moderna all'Università di Messina dal 1986. Proprio lui è sorteggiato per l'incarico, ha un curriculum lungo, 53 pubblicazioni principali più altre 5 sotto la voce altre pubblicazioni. Però poco dopo Natale, Saverio Di Bella, già docente dell'Ateneo Messinese, già senatore del PDS, massone dichiarato, spedisce una lettera velenosissima all'allora ministro Profumo, nella quale c'è scritto che quel curriculum è almeno in parte taroccato. E poi Francesco Margiocco, cacciatore curioso di chicche universitarie, ne scrive sul secolo XIX. Che fare? Insomma, che fare? Effettivamente si scopre che alcune di quelle pubblicazioni del curriculum vitae inserite da Sindoni non sono mai state pubblicate. E allora dà la possibilità di taroccare in maniera di correggere in maniera retroattiva questo taroccamento. E scrive Gian Antonio Stella: resta la domanda iniziale, dopo decenni di sospetti e polemiche su concorsi universitari troppe volte finiti con la promozione di candidati stupefacenti, era davvero il caso eticamente e politicamente di imporre ad aspiranti docenti di storia moderna di farsi esaminare da un professore che si è fatto beccare con le dita nella marmellata? Cosa ne pensa il ministro Maria Chiara Carrozza, che faceva il rettore al Sant'Anna di Pisa, dove i curriculum sono una cosa seria? Siamo sicuri che i curricula taroccati non siano più di uno, come chiede un'interrogazione del Movimento 5 Stelle? E insomma, con queste domande si chiude la puntata 1, si può dire forse, di questa vicenda, visto che Gian Antonio Stella chiama in causa anche lo stesso ministro in questa storia, che trovate sul Corriere a pagina 19. A proposito politicamente di... Visto che c'è stata questa interrogazione del Movimento 5 Stelle, il collegamento è proprio su una notizia che riguarda il comune che era e che è sbandierato come il comune più importante, Parma, quello conquistato da un sindaco del Movimento 5 Stelle e sbandierato come effigie da mostrare per l'efficienza del movimento dei grillini. Ebbene, vari articoli di giornale raccontano invece che è un momento difficile per il sindaco Pizzarotti a Parma. Parma, via il super assessore. Così titola il Corriere della Sera. L'ultimo guaio di Grillo, perde il super assessore, anche per il giornale, mentre il secolo XIX fa un articolo più complessivo. Fischi, dimissioni, inceneritore, Parma non ride più. Il super assessore di Pizzarotti, racconta il Corriere della Sera con Alessandro Trocino a pagina 11. Si tratta dell'assessore al bilancio Gino Capelli, 48 anni, ha lasciato. Oggi spiegherà i motivi di questo abbandono, ma anticipa il Corriere: i soldi dovrebbero essere il motivo. Troppo basso, 2.200 euro lo stipendio comunale. Gino Capelli, curatore fallimentare chiamato dalla Giunta 5 Stelle a salvare Parma, e sotto forma di debiti una montagna da 840 milioni tra comune e partecipate che Capelli è riuscito a ridurre fino a 585 milioni, ma che restano lì a paralizzare la città. I finanziamenti che i colleghi di giunta gli chiedevano, lui insistentemente e pervicacemente negava, forse soprattutto anche i soldi, quelli dello stipendio d'assessore, 2.200 euro netti al mese, e quelli invece che rischiava di perdere trascurando il suo lavoro da professionista. È così che uno dei pilastri della giunta parmense è crollato. Dimissioni concordate, si è affrettato a dire Pizzarotti. La spiegazione ufficiale in realtà verrà oggi in conferenza stampa alle 11, ma Pizzarotti l'ha anticipata. Motivi professionali, gli impegni non permettono nessun'altra attività e noi li comprendiamo anche se siamo dispiaciuti. E d'altronde, scrive il Corriere, Capelli ha uno studio privato da milioni di euro, si è occupato del dissesto Parmalat, del caso Guru, perché lavorare per la gloria come assessore? Però ci si chiede, forse lo si sapeva dall'inizio anche questa cosa. Sta di fatto che oggi vedremo come mai questo assessore ha lasciato e scrive il Secolo XIX. L'assessore parla di motivi professionali, il sindaco giura non c'è crisi in giunta, ma a Parma nessuno ci crede. Queste dimissioni del super assessore al bilancio Gino Capelli sono un guaio molto grosso, racconta il Secolo XIX, non solo per Federico Pizzarotti, ma per tutto il Movimento 5 Stelle, perché Capelli era l'assessore scritto in corsivo e con la A maiuscola di Pizzarotti, il primo a essere scelto dopo le elezioni, l'esperto di diritto fallimentare che avrebbe dovuto portare la propria professionalità nei conti del comune. Si è trovato di fronte a un buco da 800 milioni, la necessità di aumentare le tasse di 30 milioni, un salto in alto del 20% dei tagli agli asili, partecipate in fallimento, dipendenti furiosi sotto il municipio. Insomma, ora molla e il rischio è, qualcuno dice che anche a Parma la giunta scricchioli. Staremo a vedere, intanto andiamo a sentire la pubblicità e il meteo e poi ripartiamo da che cosa? Beh, la politica si interroga e litiga sempre sulla stessa cosa, quella che in autunno forse verrà risolta, come in autunno l'IMU, come in autunno verrà risolto il problema dell'IVA, come in autunno forse c'è un piano per l'abbattimento del debito, come in autunno riprende la questione del finanziamento pubblico ai partiti, come in autunno dovrebbe cadere la questione della spending review, come in autunno quello della riforma fiscale, come in autunno la questione dei debiti della pubblica amministrazione. Si sta come d'autunno sugli alberi, le foglie. 24 mattino. Siamo qui allora alle 7:33 minuti, continuiamo a leggere i giornali. Allora, come detto, la questione dell'IMU. Ebbene sì, italiani, siamo inchiodati a questo. All'IMU se ne parla, si deve riformare. Chissà se si riformerà. Tutto è rimandato in autunno, in realtà al 31 agosto, cioè la data entro la quale bisogna riformare la questione dell'IMU, e è anche una questione politica. Perché? Perché dal PDL ieri ci sono stati molti attacchi nei confronti di Sacco Manni, il ministro dell'economia. C'è da dire che il Secolo XIX fa il titolo più duro, IMU, il PDL spara sul ministro, ovviamente sono dichiarazioni verbali molto dure, ma anche Repubblica, IMU, il PDL attacca Sacco Manni, l'accusa è quella in qualche modo di tramare da burocrate. Addirittura qualche giorno fa il capogruppo del PDL alla Camera, Brunetta, aveva fatto capire che forse c'era una manina che aveva suggerito, una vocina che aveva suggerito, trovato conforto nel Fondo Monetario Internazionale, quando il fondo ha detto lasciate l'IMU sulla prima casa, facendo quasi adombrare che magari un suggerimento da parte di Sacco Manni ci poteva essere stato, ovviamente senza dirlo così esplicitamente. Comunque gli attacchi di del PDL a Sacco Manni, intanto il retroscena di Alberto D'Argenio su Repubblica in prima pagina, colpiscono lui per colpire il premier, gli attacchi del PDL a Sacco Manni devono cessare subito, oltretutto non tengono conto dell'estrema difficoltà del lavoro di equilibrio che deve svolgere su scala internazionale. Questa è la posizione di Enrico Letta per Repubblica, che fa da scudo umano dunque al suo ministro. L'articolo poi continua intera pagina 3, Letta avverte gli alleati, giù le mani dal ministro. E Alfano frena i suoi falchi. Che Sacco Manni sia intoccabile, racconta ancora Repubblica, Letta lo ripete ogni giorno ai suoi collaboratori, commentando i sempre più frequenti attacchi che gli riservano i falchi del PDL. Chi attacca lui, attacca il governo. Questa è la posizione di Letta. Sacco Manni, ancora la frase attribuita al premier, è la valvola di sfogo perfetta per mandare in fibrillazione il governo. Mamma mia, questo termine è tornato. Fibrillazione. Lo attaccano per pura scelta politica, visto che al momento è alla ricerca di soluzioni su IMU e IVA e non ha ancora fatto nulla di negativo che gli abbia fatto meritare una simile pressione. Vabbè, dunque, le pressioni della politica anche per l'unità. Sacco Manni, siluri. PDL, il PD risponde è inaccettabile. Ci sono due interviste a Stefano Fassina, vice ministro dell'economia, cioè il vice di Sacco Manni. A Repubblica Fassina dice gli attacchi che il ministro sta ricevendo dal PDL sono indecenti. Loro coprono i disastri che hanno fatto in questo modo. È chiaramente un tentativo di essere un partito di lotta e di governo, di scaricare le proprie responsabilità e far dimenticare agli italiani gli errori che hanno compiuto in passato. Sul Messaggero, sempre Fassina, intervistato da Diodato Pirone, l'intervista la trovate a pagina 2, dice: è ora che intervenga Alfano, vice premier e segretario del PDL. Bisogna evitare che gli equilibri sui quali si poggia il governo divengano insostenibili. E insomma, Fassina così dice: se continuano questi attacchi, qualche crepa c'è. Le critiche a Saccomanni sono inaccettabili sul piano politico e tecnico. Vabbè. Dice così, tra l'altro, Fassina, che l'ha dato molto per vicino a Brunetta. C'è questa frase alla domanda: allora è già finita la sua assonanza con Brunetta? Risponde al Messaggero Fassina: evidentemente si trattava di una fase congiunturale. Per me l'esperienza di governo è appassionante, sul piano personale ho buoni rapporti con gli esponenti PDL, fuori, dentro l'esecutivo, ma il punto è che abbiamo due visioni alternative, con spirito costruttivo bisogna trovare un compromesso. E vabbè, è la politica delle larghe intese, cari italiani, questa è la politica delle larghe intese. Allora, al di là dello scontro politico, anche il Giornale fa una pagina con Antonio Signorini a pagina 3 a dire: IMU abolizione fasulla è un trappolone anti PDL, viene messa la facciona di Saccomanni, la foto di Saccomanni, con Brunetta che dice avvelenano i pozzi. Insomma, la tensione politica. Al di là della tensione politica, la questione tecnica sull'IMU, perché gli italiani si chiedono: vabbè, ma come la risolvete questa diavoleria dell'IMU? La risolvete o no? Prima domanda fondamentale. Seconda: come la risolvete? Pagheremo o non pagheremo? Ecco, a questa domanda non c'è risposta. In autunno, si vedrà, entro il 31 agosto. Andate in vacanza tranquilli. Ci sono varie proposte, però le proposte sono tutte proposte. La prima è data dal Corriere della Sera, Valentina Santarpia, pagina 8. Casa, riforma British delle tasse. Di che cosa si tratta? Si tratta di prevedere, come in Gran Bretagna, il modello Council Tax, che unisca IMU e TARES, dunque IMU e rifiuti. Potrebbe essere questa l'ipotesi destinata a salvare il burrascoso rapporto tra PDL e PD nella complicatissima ridefinizione della tassa sulla casa, ma che l'accordo sia lontano è evidente. Ecco, vedete, proposta, ma l'accordo è lontano. Lo dimostrano dichiarazioni infuriate che ieri si sono seguite ad alcune indiscrezioni sugli organi di stampa su possibili modifiche all'IMU. Per esempio, l'indiscrezione che è uscita ieri, smentita poi dal governo, è quella sulla stangata sui cosiddetti villini, le villette a schiera. A Londra come funziona? Paga la council tax chi abita l'immobile. Comunque, potrebbe essere questa la soluzione all'inglese, chi lo sa. L'ipotesi di legare la tassa a ricometro e nuovo catasto invece è quello che prevede il Messaggero. Pagina 3 del Messaggero, Barbara Corrao: il rischio di incostituzionalità per l'imposta su capannoni agricoltura, tra l'altro, è una delle ipotesi, quella di legare la tassa al ricometro, all'ISEE, al nuovo ISEE e al catasto. Per la Stampa invece, ma siamo sempre nel piano delle ipotesi sull'imposta della casa, scrive Paolo Russo a pagina 4: ora nel mirino quelle sopra i 100-120 metri quadri. Nel mirino dell'IMU tornano le case formato large, di metratura superiore a 100-120 metri quadri, classificate nella classe catastale A2, quella che raccoglie le abitazioni di tipo civile. Palazzo Chigi intanto smentisce la stangata sui villini. Insomma, ci avete capito qualcosa? No, di definitivo no, ma neanche loro, come al solito, tranquilli. Il ministro Franceschini, intervistato da La Stampa, Carlo Bertini, a pagina 5: aboliremo l'IMU sulla prima casa, ma non a tutti, ecco. E già questo potrebbe essere fonte di nuova diatriba politica, perché il PDL vuole l'abolizione totale. Come ne uscirete? Ecco, questa domanda è inutile. I giornalisti continuano a fare questa domanda, ma non lo sanno al momento. perché non si riesce a trovare una sintesi. Allora i politici, ognuno dà la sua soluzione. Sentite Franceschini. Per l'IVA si può contribuire anche facendo un disegno più equo delle aliquote, tra 4, 10 e 21. Il paradosso della normativa mostra che singoli prodotti nella fascia di IVA ridotta non rientrano in un disegno organico. Esempi: la pasta al 4%, il riso al 10%, la frutta surgelata al 4%, la verdura surgelata al 10%. Il rinvio di un punto potrebbe essere accompagnato da un ridisegno di una logica di maggiore equità. Se ne sente parlare da 20 anni più o meno. Poi sull'IMU, per l'IMU sappiamo che l'esenzione per la prima casa è una priorità per il PDL. Quindi si farà, ma in modo ragionevole, dice Franceschini. La sospensione del pagamento finora non ha riguardato le case di lusso. Per esempio, si può intervenire in tal senso senza toccare in alcun modo le villette bifamiliari dei pensionati, che non hanno nulla a che vedere con le case di lusso. Poi per l'IMU sulla seconda casa bisogna immaginare un trattamento differenziato per le seconde, terze, quarte o quinte case. La logica deve portare a un'eliminazione dell'IMU prima casa dentro un disegno complessivo della fiscalità sugli immobili che coinvolga anche i comuni. Quindi è fiducioso? Ecco la domanda chiave di farcela. Se ci si aspetta in una situazione del genere che si possa operare con la bacchetta magica, si sbaglia. Bisogna fare passi concreti, non proclami o annunci. Ecco, appunto. Allora, questa è la questione dell'IMU, cioè la politica litiga sull'IMU in questo weekend di inizio luglio. Dall'altra parte ci sono due inchieste sui giornali. Una è l'apertura della Stampa, una è l'apertura del Corriere della Sera, che davvero fanno tremare i polsi. La Stampa, titolo di prima pagina: fallimenti l'anno dei record, 3 aziende chiuse ogni 2 ore. Paolo Baroni, pagina 2-3, un rapporto di Unioncamere che La Stampa è in grado di anticipare, un rapporto impietoso. 35 fallimenti al giorno. Ogni 2 ore in Italia muoiono 3 imprese, 5.334 per la precisione nei primi 5 mesi dell'anno, 284 in più, più 5,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Eccola qui la fotografia, la rappresentazione di quel baratro di fronte al quale ci troviamo da mesi, se vogliamo l'ultimo fotogramma del film della caduta senza fine della nostra economia. Le imprese muoiono, si scrive in questa fotografia, perché i consumi continuano a scendere, perché non riescono, non possono agganciarsi al treno dell'export, perché i costi sono troppo alti, ma anche perché i clienti, spesso altre aziende, non pagano. Insomma, si fallisce pure tanto, non solo per debiti ma anche per crediti non riscossi, e non solo dallo Stato, che in queste settimane poco alla volta ha iniziato a pagare i suoi primi 20 miliardi di arretrati, ma anche dai privati. Quali sono i settori più colpiti? Le attività manifatturiere, 1131 fallimenti, le costruzioni, 1138, il commercio, sia al dettaglio che all'ingrosso, 1203, ma anche le attività immobiliari non se la passano bene, con un aumento del 117,4% delle istanze. Idem le attività di trasporto e magazzinaggio, più 49,5% di fallimenti. A fallire soprattutto i costruttori edili, le aziende che effettuano lavori di ricostruzione specialistici, a ruota seguono le attività immobiliari e i trasportatori. E così via in questa fotografia impietosa, pagina 2 e 3. Come altrettanto impietosa la fotografia di Sergio Rizzo, pagina 4 e 5, sulla burocrazia in Italia. La burocrazia in Italia ci costa 30 miliardi. Volete capire cosa vuol dire la burocrazia? Dice Sergio Rizzo. Andate a Laino Borgo, 2000 anime, in provincia di Cosenza, nel cuore del meraviglioso Parco del Pollino. E nei pressi del paese c'è una vecchia centrale elettrica spenta nel 93 perché non più economica. L'Enel vorrebbe riconvertirne una parte a biomasse, ma il progetto è imprigionato in un inestricabile dedalo di pareri, autorizzazioni e veti incrociati e carte bollate. Dal 2001, 6 anni dopo, le pratiche sono esaurite. Pensate, 6 anni. Ma quando si fa per girare l'interruttore nel 2007? Una nuova direttiva europea impone un altro passaggio formale. La giostra infernale si rimette in moto, i documenti restano nei cassetti della provincia di Cosenza per 2 anni e mezzo, mentre l'ente parco, 11 giorni dopo aver concesso il quarto via libera, ci ripensa. Ricorsi, controricorsi, 14 sospensive, ordinanze, sentenze. L'ultimo pronunciamento del Consiglio di Stato, agosto 2012, ribalta la precedente decisione del TAR, favorevole all'impianto, azzerando tutte le autorizzazioni, e dopo 12 anni si ricomincia da capo. Eccolo qui, la burocrazia in Italia, 2 pagine 4 e 5, le leggi italiane, 1 semplifica, 4 complicano, 30 miliardi il costo stimato, poi vai a sapere qual è quello preciso, stimato della burocrazia in Italia. Andiamo a sentire il traffico, poi chi vincerà oggi il premio? La carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Boh. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. C'è chi mi chiede di fare una campagna di riforma per la pressione per la riforma elettorale, cara Cristina, ma lei è una fine umorista, dovrebbe andare a Zelig, VSMS ci chiede questo. Inizia oggi, ricordiamo, è lunedì, la 10ª settimana decisiva per la riforma elettorale, così come la 10ª settimana decisiva per l'abolizione delle province, oggi lunedì 8 luglio. In tutto questo, Napolitano ieri era a Monza, alla Villa Reale, insieme al Premier Letta per lanciare l'Expo, ha detto... Facciamo uno scatto d'orgoglio, basta autolesionismo. No, avete sentito, l'abbiamo fatto sentire alle 6.30 anche il Premier Letta parlare della cappa, la cappa che sta sulle nostre teste, la cappa nel senso come la cappa di smog, una cappa di autolesionismo, no? L'ha ripetuta 4 volte questa parola nel giro di 30 secondi. Basta questa cappa. Secondo il Corriere, proprio parte l'operazione orgoglio da parte del presidente della Repubblica Napolitano. Orgoglio, magari un po' meno orgoglio, un po' più soldi brutti, schifosi, e subito sul conto corrente gli italiani li vorrebbero, non so, un po' meno orgoglio, ma anche un po' meno tasse, un po' una manciata di euro sullo stipendio a fine mese. Comunque, insomma, parte l'operazione orgoglio da parte delle istituzioni, l'orgoglio di essere italiani, riprendersi anche l'Expo potrebbe essere questa situazione. Sta di fatto che il Sole 24 Ore, visto che a molti è piaciuta la citazione quasi ungarettiana, no? In autunno, tutto in autunno. C'è chi mi scrive: in autunno cade anche il mio compleanno, il governo lo farà saltare. Non lo so, glielo diranno in autunno, se quest'autunno lei potrà festeggiare, cara Daniela. In ogni caso, in autunno fa sapere il Sole 24 Ore i 10 dossier sul tavolo del governo. Insomma, qui tra IMU, e ne abbiamo parlato, IVA, e ne abbiamo parlato, la giustizia civile, e noi parleremo anche alle 8.15 della giustizia civile, nel senso che parliamo di questa presunta casta additata, una delle caste italiane, quella degli avvocati, le lobby degli avvocati, la spending review, cioè la revisione della spesa, la legge per la riforma fiscale, i pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione. A proposito di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, ho letto sul Sole 24 Ore questo straordinario articolo, straordinario si fa per dire, nel senso nell'incipit, Valeria Uva, pagina 7, i comuni sono lenti a pagare i debiti, sono lenti un po' come tutte le amministrazioni. Lo smaltimento è previsto fino al 2015 nei piani dei principali enti indebitati. L'inizio dell'articolo è bellissimo. Gli enti locali restano prudenti sul pagamento dei debiti arretrati. Avete capito, cari italiani? Restano prudenti i comuni, gli enti locali, nel pagamento dei debiti. Fate anche voi così. Se avete un debito, siate prudenti nell'estinguerlo, e vediamo poi che succede. Mandateci una mail 24 mattino e radio24.it e fateci sapere se siete prudenti nel pagare i vostri debiti cosa vi succede. Intanto una notizia invece positiva dal Sole 24 Ore, Chiara Bussi per le imprese, si concentra sui fondi BEI, 5,5 miliardi nei primi sei mesi, i finanziamenti della Banca Europea per gli investimenti, motore, sostegno per le piccole e medie imprese, la lotta alla disoccupazione, ha fornito nei primi sei mesi appunto dell'anno 5,5 miliardi di euro all'Italia, uno strumento ancora poco conosciuto ma che evidentemente qualche risultato lo dà. Vabbè, cosa c'è? La politica è quasi tutta annullata dalla questione della diatriba sull'IMU, però ci sono due notizie epocali. Oggi pare il PD fisserà le regole per le primarie. Veramente non se ne poteva star senza. Pare il 15 dicembre, prima data possibile per le primarie. Poi parte oggi, ma sui giornali praticamente non c'è alcuna notizia, quindi in sordina, il referendum online per coinvolgere tutti gli italiani per le riforme costituzionali, cioè qualsiasi italiano potrà dire, oggi è lunedì, si riuniscono i saggi, quelli che, come ci ha detto il saggio D'Onofrio, pensano liberamente, gratuitamente, pensano, come ci ha detto venerdì in onda, e partirà, ha detto il ministro Quagliariello, questa consultazione online accessibile a tutti gli italiani per suggerire cosa fare per le riforme costituzionali. Quindi non bastavano i saggi, 35 saggi, 7 scribi che dovranno suggerire al comitato di 40 dei parlamentari, c'è anche un uomo che è di raccordo tra i saggi e il Parlamento, e ora la consultazione per chiedere agli italiani come fare dal punto di vista di suggerimenti. Per questo è stato creato un comitato di 3 persone presieduto dall'ex ministro Profumo che controllerà la scientificità di tutto questo, quindi un nuovo comitato. Va bene, ci fermiamo qui, ma è tempo del premio La Carta Costa. Oggi siamo sul secolo XIX, Irene Pugliese, l'importanza di non chiamarsi Goffredo. È il racconto, un'intera pagina di tutti gli italiani che fanno la procedura per cambiarsi il nome, perché è sgradito, ridicolo, ed è boom in Italia, racconta il secolo XIX. Tu, Peter, che ti chiami Peter, hai mai pensato, Peter Bescapè, di cambiare il tuo nome? Pensa che c'è in Veneto uno che ha fatto la procedura, si chiamava Goffredo. E tu, che male c'è? Ho capito, ma se tu lo leggi alla verità, Goffredo, sembrava Goffredo, e allora ha cambiato la procedura. Il secolo XIX ci fa una pagina per raccontare quanti italiani cambiano come quello Goffredo e Veneto. Una pagina, pagina 10, cari colleghi del secolo, che leggo sempre con grande passione, La Carta Costa, ricordatevelo, e andiamo al giornale radio.